se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Quella tedesca cattiva che si veste come un comò, che ha fatto arrabbiare il mio Matteo. E dove l'ha fatto arrabbiare il mio Matteo? Al vertice europeo di Bratislava. C'aveva una faccia, povero Renzi. Sembrava che gli avessero rigato l'iPad. E sono usciti nuovi dati sul lavoro. Secondo l'INPS, i contratti a tempo indeterminato sono calati del 33,7% nei primi 7 mesi di quest'anno. Esatto, perché lei guarda solo i dati dell'INPS. No, vabbè, sono dati parziali. Ah, sono bene. Se lei ci mette anche i dati dell'Istat, sì, che sono precisissimi, sì, e poi quelli del Ministero del Lavoro, che faccio io personalmente con le dita, lei, che arriva addirittura a 20 senza scarpe, no, vabbè, a 21 nudo. No, ma lasci stare, nudo. E poi ci fa un totalone da nudo, sì, che fa 21. Devo dire che il Poletti Crozza è uno dei momenti più alti del buon Crozza stesso, eh? Il Poletti Crozza, ce n'è un altro di Poletti Crozza, ne hai preso un altro, no? Perché guarda che più avanti facevo ancora più ridere, ieri l'ho visto in diretta. Ovviamente perché era finito il primo tempo di Milan-Lazio. Proprio così, secondo me l'hanno messa apposta buono nel primo tempo di Milan-Lazio, Crozza! E poi sono tornato a vedere la partita, ovviamente. Il trionfo, eh! Liscio di Parolo, questo errore Kučka, campo aperto per Bacca, vai. Scoperta la difesa, vai, della Lazio! Eccolo lì, quello era l'1-0. Allora, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, questa è 24 mattino con il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Pescapè in regia, siamo tutti quasi pronti, tutti, proprio no, il nostro Luca Dini è una di quelle giornate in cui non si sa, è scomparso, sarà andato a vedere tra Brede e Angelina se si riesce a ricomporre all'ultimo la situazione. È lì proprio a dire no dai Brangelina, non mollate, non lo so, vediamo se magari è partito, è andato a Los Angeles, a New York, in Tibet a incontrarli per cercare di ricomporre all'ultimo tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Ah, tra l'altro devo dire questa cosa, dai, perché tutti parlano di Brangelina, no? Allora, Angelina Jolie ha chiesto il divorzio a Brad Pitt. Non sarebbe un buon padre. E oggi ho letto Natalia Aspesi su Repubblica, dice: tutto il mondo ha sempre pensato che lui fosse un padre straordinario. Ma chi li conosce? Ma l'hai mai frequentato? Cioè bastano 4 foto con in braccio i bambini, 400 bambini, quanti ne hanno? 600 bambini? Cioè, che ne sai? Ma che ne sappiamo? Ma cosa ne sai? Lo frequenti? Ci mandi un hamburger insieme? Fai un barbecue? Fai le vacanze? Fai il weekend con Brad Pitt? Natalia Aspesi? Non credo. E quindi non lo sappiamo. Va bene, saluto tutti gli ascoltatori che al 349-238-6666 ci mandano i messaggi. Voglio però dare un abbraccio a una Paola Saluzzi. Cara Paola, Ciao, intanto, oh, ciao. Buongiorno, buongiorno, allora, buongiorno, buongiorno. Cara Paola, sei seduta? Sono seduta. Sei tranquilla? Perché adesso io ti devo far ascoltare a te e a tutti gli ascoltatori una cosa che ha dell'incredibile. Allora, settimana scorsa, se ti ricordi, avevamo fatto un appello pubblico. Sì. Chiedendo una sigla nuova, perché non è mica possibile avere una sigla vecchia. Ma guarda che allora, e abbiamo anche chiarito che non avremmo assolutamente pagato il nostro misterioso ascoltatore, che però ci regala delle sigle straordinarie di Paola Saluzzi. Non mi dire. Ma quest'anno, no vabbè, ma non, cioè non puoi capire, non potete capire, no ma non potete capire, ascolta qui, guarda è un po' lunga, ma siediti e ascoltate. No, sono seduta. Ecco, vai. Questa stagione con Paola Saluzzi e Alessandro Milan. Come? Non mi pagano. Come sarebbe a dire? Chi l'ha detto? Milan. Adesso ascoltami bene, Milan. Ma come fai a non pagarmi? Con tutte le ore di trasmissione che ti ho riempito. Ma dove lo trovi uno che fa questo? Questo mercoledì alle 6.33 una nuova puntata di Evviva le Russe. No, questo. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. O quest'altro ancora. Sono un grifio, mi tocca rifare tutto. O il grissino. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che ti taglia con un grissino. O Mariuccio Giordano. Ma dai, ma insomma, dai. Non male, no. Non male. Wow. This is George Clooney and pure George Clooney mi fa. No, senti. Sì, t'ho fatto pure George Clooney e tu non mi vuoi pagare. Milan, domani passerà un mio incaricato e ti detterà le mie. No, non ti paghiamo come sempre. Per amore. Come dici, Paolina? Per amore? Sì, certo, Paola. Tutto quello che vuoi. Eccoti la sigla nuova. Sì, sì. Basta con la solita radio. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia A Casa di Paola. Sì, andremo tutti quanti a casa di Paola e staremo insieme a lei tutto il giorno. Mentre si fa da mangiare, mentre si lava. Ehi, birichino, non sbirciare. Mentre gioca col gattino. Mentre parla con due tizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. E alla sera possiamo rimboccarle le copertine. Buonanotte, Paolina. Con la nuova stagione cambia il tuo modo di vivere la tua rossa preferita. A casa di Paola, tutto il giorno, tutti i giorni. Per sempre. Vabbè. Insomma, straordinario, 96 minuti di applausi. Allora, è geniale. Oh, ha del gran tempo da perdere, diciamo la verità. No. Grande, ma lo affetto. Impiega bene, però lo impiega in maniera creativa. Io sono onorata. A casa di Paola, va bene. A casa di Paola, fantastico. È fantastica, con la copertina. Buongiorno, ben arrivati, apro la porta e devo che la copertina. Eccoci qua. E va bene, a casa di Paola. No, vabbè, ma non sapevo che fosse tutto lui. Tu si è svelato con tutti questi George Clooney, Mario Giordano. Meraviglioso. L'arrotino, tutte le sigle. Mannaggia. Vabbè, dai, allora un eurino magari te lo mandiamo. Adesso un euro. Euro te lo sei guadagnato. Uno dei due eurini. Bravo. Salvadanaio. Mi posso privare di uno dei due euro. Va bene, allora, come hai capito, cara Paola, il nostro Lucadini è partito per andare da Brangelina. È partito perché questo è il divorzio, adesso non si può dire del secolo, del millennio. Diceva ieri sera qualcuno. Oh, mamma mia. Cos'è? Del millennio, sì, vabbè. No, dico, sbuffavo, insomma, questo... Ah no, scusate, aspetta, è partita la musica. Che succede? È partita una musica a casa di Paola. È partita una musica. Una diavoleria. A casa di Paola. A casa di Paola, attenzione. Il mio telefono, adesso io parlerò per tutto il tempo con questa sigletta che tu non senti, ma che io sento. Ah no. Perché uno scarica le nuove applicazioni del telefono. Certo. E succedono anche cose. No, ma guarda, non si sente nulla in onda. Quindi Se è qualcosa di compromettente, non ti preoccupare. Alessandro, non te ne andare? No, va bene. Noi apriamo il Parlamento. È un dramma a casa di Paola Saluzzi, ma noi non c'entriamo niente. Se prende un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo in realtà noi non sentiamo nulla, quindi puoi stare tranquilla. No, è finito. No, volevo invece farvi sentire un'altra cosa. Vediamo se stamattina sono alla pari. Sì? Vediamo. Sì, vediamo. Non sentite? Che succede? La macchinetta del caffè. Cosa? Ma no, il gatto che faceva le fuse. Oh mamma mia, ha vinto Peter Bescapè. Ce lo fai risentire? Obbligala a fare le fuse. Eccola. Ma cosa, un trattore? C'hai un gatto o un trattore a casa? Sono le fusa di Caterina. Tavolo, le fusa, volevo inviarvele. Attenzione. Volevo mandarvi questo sentimento di coccole, va eccetera. Bene. No, tornando al nostro Lucadini, sì. Ovviamente questo sì. È il gran divorzio. Io ieri già sentivo, ieri, ma così, entrando in un caffè, che si sono... signore che sì. Dicevano, ma l'avevo detto che Jennifer non la doveva lasciare. Ecco, eccoli, Jennifer l'avevo Aniston. L'avevo detto, ovviamente. Jennifer non doveva lasciare. Ma così, chiacchieravano tra loro. Sì. Anzi, forse se ascoltavi bene, ha detto gliel'avevo detto. Jennifer non la doveva lasciare. Ma saranno bene fatti loro, ovviamente. Vabbè. Tu con 400 figli mi hai fatto ridere, perché in effetti sì. Esatto. Questi figli li evitavano nel corso del ogni tempo, tanto però, ne prendevano un paio. Però, allora, cara Paola, però bravi genitori, insomma. Facciamo così, parliamo anche. Io voglio chiederti una cosa su Roma subito, perché oggi sì. Potrebbe essere il gran giorno, il giorno in cui intanto Virginia Raggi incontra i vertici del CONI, ma forse il giorno in cui dirà il suo no, così pare, il suo no alle Olimpiadi. Allora, intanto, ma a Roma di questa cosa si parla? Vi frega qualcosa? La vedete una cosa lontana? Guarda, a Roma c'è gente che... allora, c'è una parte di Roma che vedrebbe volentieri l'arrivo dei Giochi Olimpici. Attenzione, dei Giochi Olimpici, cantoniani, posso definirli sì, così? Sì. Dedicando il tutto a Raffaele Cantone, cioè... fare qualcosa che sia molto importante per la città, perché è inequivocabile che sposti una quantità di lavoro e una quantità di è un valore innegabili, sì. Purché seguiti in maniera perché non ci lasci soltanto buco di conti. Esatto, chiaro. Esatto. Poi ti ripeto, le Olimpiadi sarebbero una grande opportunità per una città come Roma. Poi c'è dall'altra parte gente che dice abbiamo altro a cui pensare, quindi e ce n'è tanto a cui pensare, per carità, però non so quanto questo altro a cui pensare venga sanato dal fatto di non fare le Olimpiadi, non lo so. Sì, no, io sono dell'idea che uno possa fare più cose contemporaneamente. Non è che se uno fa le Olimpiadi intanto non sistema le buche. È anche vero che non è che bisogna aspettare le Olimpiadi per sistemare le buche e sistemare una città e fare in modo che una città funzioni, se no sembra quelli che si mettono, come dire, la maschera o fanno un bel rassetto di casa. No, perché assolutamente no, arrivano, vale, gli ospiti di onore, no? Vale il principio, cioè bisogna seguire anche il modello Torino. Dove non so se si trattasse di buche, non vivo a Torino, inequivocabilmente il pre-Olimpiadi, le Olimpiadi e soprattutto il dopo sono serviti alla città in maniera incredibilmente alta, forse neanche come gli stessi torinesi si sarebbero aspettati, quindi se fosse un modello Torino per Roma sarebbe una grande opportunità. Sì, c'è da dire che, attenzione, oggi Repubblica racconta anche questa. Sentite, cari cittadini, ci manca solo questa. Ci sarebbe quella cosa lì, insomma. Un parere, ecco, non mi veniva la parola. Un parere dell'avvocato Pellegrino per il CONI, a favore del CONI, che dice sostanzialmente questo: attenzione, Roma di fatto ha già con la Giunta Marino accettato la candidatura alle Olimpiadi. Se si torna indietro, si potrebbe da parte dello Stato chiedere 20 milioni di euro di danni al Consiglio Comunale e ai consiglieri comunali di Roma. Ci manca solo questa, cara Paola Saluzzi, che vi chiediamo. che vi chiedano pure 20 milioni di euro di danni. Non sarebbe male. In questi casi si conclude dicendo è una situazione complessa. Esatto. Per chiudere tutto l'argomento, per chiudere l'argomento ci manca solo questa. Intanto ieri c'è stato il Consiglio Comunale. Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha detto che si stanno esaminando i curriculum per il posto di assessore al bilancio. Sto visionando curriculum, sto esaminando persone e nel più breve tempo possibile, ma nel tempo necessario, saranno completate entrambe le procedure di nomina e quindi procederemo alla nomina di queste due nuove figure. Vabbè, vedo gente, ricorda il mitico, vedo gente, incontro persone, faccio cose, vedo gente, tra l'altro c'è un giallo su questo. A un altro ennesimo giallo, pare che non sia mai arrivata la delibera per togliere la nomina all'assessore De Dominicis. Quindi potrebbe essere assessore a sua insaputa. È ancora assessore. A sua insaputa, forse. Abbiamo ancora un assessore che non sa l'assessore. Non si sa. Pare manchi la delibera per la revoca dell'assessore. Vabbè, come capisci, cara Paola, a casa di Paola è un gran casino. Andiamo a sentire il traffico e poi ritorniamo qui. La colazione dell'italiano. Cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Oh Alessa, buongiorno, sono Pinucci da Cerniola, si numero che ho, no? Beh, salutami a tutti qui della Rete 24, ciao. Bonus cultura, c'era un organizzatore della festa dell'unità che diceva: quando alla gente ci dai da mangiare sono contenti. Oh Maria, e sono Anacleto. Senti, stamattina ho visto quel servizio della Saluzzi e apro parentesi e chiudo parentesi, digli alla Paola che mi passi la battuta, insomma l'ho vista bene a mezzo busto. Comunque tanta roba, ciao. Vabbè, tanta roba, e si sa, la nostra Paola, Sono cose belle. Sì, no, infatti il nostro Anacleto la vede così. Che devi fare? Volevo sentire. Ma in tutto ciò è il nostro Luca Dini. Ma non lo so. No, proseguiamo questo giallo. Ma no, ormai lo abbiamo abbandonato a cercare di ricomporre un po' tra Brad Pitt tu e Angelina. Tu dici che sarà lì? Sì. È probabile. Eccolo qua, guarda sul Messaggero, spunta nella nuova saga degli A Sua Insaputa anche l'assessore al bilancio De Dominicis. Non è mai stato, pare non sia mai stato revocato. Mai stato revocato. Che dobbiamo fare? Quindi è così. Allora, cara Paola, noi da qualche giorno abbiamo iniziato una nuova iniziativa ed è quella di voler coinvolgere anche i nostri ascoltatori all'estero che ci raccontano le prime pagine dei giornali, ci raccontano le notizie che invece di cui si discute. Ottima nei paesi idea. In cui vivono. Vogliamo oggi scoprire chi sei con noi? Good morning, Vietnam! Eccolo qua. Hey, this is not a test, this is rock and roll. Te la ricordi questa, Come no? Allora, oggi abbiamo scovato la nostra ascoltatrice Paola, che non è Paola Saluzzi, non è uno scherzo. Paola, è vero Paola, che ci ascolta da dove, Paola? Da Copenaghen, dalla piovosa Copenaghen. La piovosa, guarda, anche a Milano oggi piove. Allora, ecco, più o meno. Allora, Copenaghen, di che si discute? Di questa Europa, forse, no? Si discute dell'Europa? No. Sì. Migranti, connesso ai migranti, connesso ai rifugiati, connesso poi alle elezioni politiche di qui, dove c'è un partito di destra del governo, che quindi ha cavalcato molto l'onda dei rifugiati, perché anche qui non è stato un problema come giù in Italia, ma anche qui comunque si è sentito. Però se ne parla anche di quello che succede qui giù al sud. Sì, con i riferimenti sempre che quelli che stanno al sud sono i più sfortunati, invece chiaro. Quelli che stanno al nord hanno un po' meno afflussi. Quindi questo sì, è anche un argomento che qua trattano molto. L'altra Paola, vorrei tornare a casa di Paola per un attimo, questa storia dei migranti, certo che è una cosa... Fa bene secondo te Renzi a battere i pugni sul tavolo nel confronto dell'Europa? Sì. Sì, perché questa è un'Europa che... Intanto Paola, buongiorno in quel di Copenaghen. Questa è un'Europa che sta agendo in maniera completamente strabica, per fare un complimento, per dire, insomma, non sanno esattamente dove guardare rispetto al problema, che non è un problema territoriale, cioè non è di dove arrivano, ma è di dove vanno e di dove e di come correttamente vadano collocati. Poi Paola ci stava dicendo una tristissima realtà, ci sono destre già al potere, e questo va bene, perché vengono tutto ciò che è democrazia e tutto ciò che viene votato dal popolo vuol dire che è desiderato dal popolo. Poi ci sono partiti come Alternative für Deutschland, che vediamo andare avanti con quella rappresentante che, poverina, ha già scelto un taglio di capelli abbastanza infelice, le mancano un paio di baffetti quadrati ed è perfetta. Proprio perfetta, già il taglio di capelli giusto con il baffetto nero. E questo è il pericolo, non è la crescita, la diffusione del populismo, è la xenofobia. La xenofobia. È il populismo, la xenofobia. Qui è molto forte. È forte lì, Paola, a Copenaghen. È forte, sì. Soprattutto per quanto si parla di musulmani, che qui comunque c'è una comunità abbastanza sentita di musulmani che vengono da migrazioni degli anni 80, degli anni 70-80. Quindi sì, ce n'è di xenofobia. E questo purtroppo si assiste come diffusione in varie parti d'Europa. Paola, tu che guai, fai? Guai al buonismo, Alessandro, l'abbiamo detto mille volte, guai, perché quello ammazza più della xenofobia. Anzi, forse il buonismo è quello che poi dà il motivo ad alcuni di abbracciare, di abbracciare la xenofobia. Esatto. Paola da Copenaghen, che fai lì? Cosa fai? Vivi lì? Io in realtà sto proprio studiando studi sui rifugiati, quello che si tradurrebbe in italiano studi sui rifugiati, quindi so bene di cosa parlo quando parliamo benissimo, di questo. Cioè sei all'università, stai studiando, ci facciamo un po' i fatti tuoi. È un master in studi sui rifugiati proprio, quindi tutto quello che è le relazioni internazionali, ma anche il diritto internazionale e anche tanto di sociologia, antropologia. Benissimo, allora Paola da Copenaghen, grazie. Paola da Copenaghen, tieni la paletta alzata, voto da 0 a 10, non come all'università da 0 a 30, insieme a casa Paola. Voglio che diate un bel voto al ministro Del Rio. Cara Paola Saluzzi, lo conosci Del Rio? Sai che ci sono gli amici di Radio Rock, un giorno li invitiamo anche in onda, sono mitici perché invitano le persone, i popolari, i ministri, i politici a cantare. Allora Del Rio si cimenta, guarda, non l'ho ascoltata neanche io, quindi ascolto in diretta con voi lo shampoo di Gaber. Credo che sia anche molto complicata da cantare, eh? Sentite Del Rio. Una strana giornata. Ma che? Non si muove una foglia. Urca. Ho la testa ovattata. Non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo. Devo farmi per forza un shampoo. Non è Ministro, facile. Come colleghiamo una ragione per votare sì al referendum con lo shampoo? Vediamo. Straordinario. Perché dobbiamo smettere di essere indecisi e lo shampoo non è una soluzione. La soluzione è decidere. Decidere, no, ragazzi, e finalmente cambiare pure il nostro paese. E rispondo. Cara Paola Saluzzi, rispondono pure perché... ma secondo me hanno un momento finalmente di leggerezza. Sì, ho capito, ma poi dallo shampoo al sì al referendum. E poi c'era Poletti, la locomotiva gli hanno fatto cantare. Lui, vedi, la locomotiva è il progresso. Il sì è il progresso. Il progresso, la locomotiva. Che poi in realtà la canzone di Guccini raccontava di uno che si va a schiantare contro i ricchi e i potenti, la locomotiva. Comunque, voto Paola da Copenaghen al ministro Del Rio. Come cantante do un 6. Sei politico. Paola da Copenaghen ha paura che gli revochino il master con questa serie. No, scherzo. Paola, grazie davvero. Paola Saluzzi, che alle 10 sarà in onda su Sky. Che voto diamo a Del Rio? Con le tue domande, 7 per incoraggiamento. 7. C'era Gaber dall'altra parte. Per il coraggio. Per il coraggio, 7 per lo shampoo. Allora ringraziamo Paola Saluzzi, ricorda le 10 su Sky. Salutiamo Luca Dini insieme a Brad e Angelina a ricomporre un tentativo di divorzio che Luca Dini sventerà, chi lo sa? E intanto alla prossima. Uè, Alin Mila e lì gestisci un lanciano di Yamia. 24 mattino. E allora siamo qui a leggere appunto i giornali con voi e per voi, per voi. Cari ascoltatori, mandateci le vostre sigle al 349-238-6666. Siamo nello spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Forza Peter, sei pronto lì in regia? Dai allora, dai. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. No, l'ho detto con un tono che sembrava addormentato, ma così non è, ovviamente. Allora, siamo a mercoledì 21 settembre, qualche titolo di aperture dei quotidiani. Oggi le aperture sono molto diversificate. L'apertura finanziaria del Sole 24 Ore, mercati avanti adagio, cautela sulla rotta dei tassi. Questo è il titolo di prima pagina. Poi c'è chi sceglie l'attualità internazionale, come il caso Libia, Corriere della Sera, il caso dei rapiti senza scorta. Mentre La Stampa, bombe in Siria, schiaffo all'ONU, la guerra riprende nonostante gli appelli alla tregua. Poi c'è chi sceglie il tema Unione Europea, Renzi, Berlino uccide l'Unione Europea. Questo è il titolo del giorno, il nuovo affondo da New York contro l'austerità, conviene solo ai tedeschi. Per il giornale l'Italia fuori dall'Europa, c'è la formula. È uno studio di Credit Suisse che ha messo nero su bianco la possibilità di uscire e staccarsi dall'Europa. Libero, l'Unione Europea ci succhia 25 milioni al dì, la paghiamo per prenderci a calci, questo è il titolo di prima pagina. Poi c'è la legge elettorale per Repubblica, c'è l'accordo, l'Italicum sarà cambiato. Mentre il Fatto Quotidiano, ricordate l'Italicum, ci hanno preso in giro e continuano. Il Messaggero invece, giochi il giorno della verità, questo è il titolo di prima pagina, visto che oggi ci sarebbe il no del sindaco di Roma, mentre La Verità è uscito ieri, diretto da Maurizio Belpietro, che sarà il nostro ospite alle 8.40, indagine sui finanziamenti al consulente di Renzi e Pinotti. Nel fascicolo per bancarotta sugli ex soci del papà di Renzi compare Roberto Donnini, che ha curato le campagne elettorali di Matteo e ora è nello staff del Ministero della Difesa. Queste alcune delle aperture, come al solito se c'è spazio poi vedremo le altre anche nel corso della rassegna stampa. Intanto voglio subito andare con la lettura di giornali in Libia, proprio per raccontare la vicenda di questi due italiani rapiti insieme a un canadese rapito di questa società Conicos. La notizia buona, se volete, raccontata dai giornali, è che le autorità conoscono i rapitori, ci sarebbe una sorta di contatto, dalla Libia arrivano rassicurazioni all'Italia. La notizia forse che desta più preoccupazioni e soprattutto polemiche è questa invece, pagina 3 del Corriere della Sera, racconta Fiorenza Sarzanini, la società per cui lavoravano, la Conicos, non aveva fornito informazioni alla Farnesina, cioè al Ministero degli Esteri nostro, sulla presenza in Libia. Operai senza scorta, la società ignota anche alla Farnesina, questo è il titolo. E cioè i vertici dell'azienda avevano deciso di non fornire alcuna informazione sulla propria attività in Libia e soprattutto non avevano registrato i dipendenti. Ecco perché l'irritazione del governo italiano dopo il sequestro di Danilo Calonego e Bruno Cacace filtra in modo evidente, soprattutto tenendo conto che altri due dipendenti della stessa Conicos erano stati rapiti nel 2011 e dunque era chiaro quale fosse il livello di rischio. Il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Claudio Taffuri, dice pubblicamente: quando una società italiana opera in Libia, li esortiamo a dotarsi di un sistema di sicurezza. Per noi è un paese a rischio, ma capisco le imprese che hanno interesse sul posto e dunque sono invitate a dotarsi di sistemi di sicurezza. Sistemi di sicurezza che evidentemente non c'erano. Tra l'altro, sempre su questo tema, Nancy Porsia, pagina 7, una giornalista che ha speso lungo tempo in Libia, racconta che cosa sia la zona di Ghat, dove sono stati rapiti. Ghat è una delle città di confine che vive sul business del traffico di migranti e armi. Da ormai 2 anni è lacerata da una guerra tra due gruppi di minoranza culturale, i Tabù e i Tuareg. la città infiltrata da tempo da cellule affiliate alla rete di Al-Qaeda del Maghreb e più di recente anche da gruppi legati allo Stato Islamico. Insomma, una zona ad alto rischio che però non ha fermato la società cuneese, proprio come oltre un anno fa la società Bonatti non si lasciò intimorire dal ben noto pericolo rapimenti lungo la litoranea che correva dal confine tunisino verso il compound dell'Eni Oil & Gas Mellita, dove è avvenuto il sequestro di 4 tecnici. Ricordiamo che 2 di loro poi furono uccisi, e cioè Salvatore Failla e Fausto Piano. Insomma, la situazione è un po' complicata, come d'altronde si sapeva in Libia. Tra l'altro, uno dei 2 tecnici rapiti, quello più anziano, già in passato si era convertito all'Islam. Così mi salvai da altri 2 sequestri. Questo è un racconto ovviamente postumo, raccolto ora e pubblicato dal Giorno a pagina 3. Il tecnico di Belluno sotto attacco già nel 2014, ci furono spari, tanta paura, ma io mi sono convertito all'Islam, avevo un documento scritto in arabo che forse mi ha salvato perché i rapitori l'hanno visto. Insomma, vite un po' a rischio. Invece, se ci spostiamo dalla Libia alla Siria e quindi un po' più a est, beh, in Siria io... Ieri ho scritto su Twitter in maniera molto amara, no? La tregua in Siria bombardata la Croce Rossa. Effettivamente questo bombardamento, di cui si sa anche poco, ha un convoglio umanitario, un bombardamento che ha ucciso anche il capo del convoglio umanitario della Mezzaluna Rossa siriana, Omar Barakat. È un duro colpo a questa fragilissima tregua che c'è in Siria. Un duro colpo anche all'ONU, come la stampa mette in evidenza con Giordano Stabile a pagina 3. Diluvio di bombe, accuse, nuovi fronti, la Siria prende a schiaffi i grandi dell'ONU. Il segretario di Stato americano Kerry dice la tregua c'è ancora, non si sa se siano frasi di circostanza per tenere alta e viva la speranza. Certo, racconta la stampa le carcasse annerite dei camion degli aiuti umanitari, 20 operatori inceneriti da un diluvio di bombe alle porte di Aleppo assediata, sono una porta in faccia a ogni tentativo di soluzione politica. Se non fosse per le vite umane spazzate via, compresa quella del direttore della Mezzaluna Rossa, sembrerebbe un colpo di teatro, un gesto eccessivo per imporre la propria posizione. In Siria la guerra è totale, non ci sarà pietà per nessuno. È uno schiaffo soprattutto all'ONU. Il segretario generale Ban Ki-moon lo ha sentito in pieno, ha reagito, definendo disgustoso, barbaro, deliberato l'attacco, accusa Assad di essere il principale responsabile di 300.000 morti. Ma è di fronte a questa realtà che la tregua concordata tra Russia e Stati Uniti è finita nel peggiore dei modi. In una settimana è successo di tutto. Ovviamente Damasco e Mosca negano di aver compiuto i raid, accusano i ribelli di aver incendiato i mezzi apposta per dar la colpa loro, ma immagini di fori causati da deflagrazioni fanno propendere per un bombardamento aereo. Sta di fatto che ovviamente è il solito rimpallo di responsabilità. Anche Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore racconta dell'ONU costretta a sospendere gli aiuti umanitari in Siria dopo questo attacco e una tregua che veramente va a rompersi subito. Voglio venire alle cose italiane per raccontare subito l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida, e sempre, mi raccomando, gli oggetti contundenti appoggiate in questo momento, anche tazzine del caffè bollente che poi vi va il caffè sulla mano. Allora, noi in Italia siamo sempre in grado di fare le cose, magari partendo da sentenze secondo alcuni giusti, secondo alcune sbagliate, magari discutibili. La sentenza è quella di Torino che permette ai genitori di portare il cibo da casa, di dare il cibo da casa ai figli a scuola. Sentenza che, dicono i giudici di Torino, può essere estesa a tutti, non solo ai ricorrenti, a tutti i genitori in tutta Italia. Questo ovviamente crea un po' di confusione, immagino, nelle scuole, come a Milano, dove Due famiglie hanno deciso, evidentemente attenendosi a questo pronunciamento del giudice, di dare la schiscetta, si chiama Milano, cioè il pranzo da casa ai loro figli. Risultato? Ecco, noi in Italia riusciamo sempre a fare poi le cose un po' complicate. Risultato? Questi bimbi si sono trovati a mangiare da soli. Non nella mensa scolastica con gli altri, ma in quella che viene definita dal Corriere della Sera la stanza del panino. I bimbi e la stanza del panino. Federica Cavadini, a pagina 29 del Corriere. Vietato l'ingresso in mensa agli alunni che portano il pranzo da casa, detto dal comune e fatto dalla scuola. Così bambini di due elementari si presentano in refettorio con la schiscetta, appunto, così si dice a Milano, ma devono mangiare in classe senza i compagni. Mia figlia mi racconta di aver pianto. Il mio non ha toccato cibo e si è sentito male, denunciano i genitori che a Milano si sono mossi dopo il sì dei giudici di Torino sul panino da casa, in realtà poi non era un panino, e ieri hanno inviato lettere di diffida ai presidi dei due istituti e al comune. Andiamo avanti, anche se i nostri figli a 10 anni sono esposti, ma hanno capito che è una battaglia importante per un diritto. Capite? A 10 anni... mettere, e non sto dicendo chi abbia ragione e chi abbia torto, secondo me se c'è una sentenza hanno ragione coloro che possono portare il cibo da casa, ma voglio dire, mettere questa situazione con bambini di 10 anni, no, tu non puoi mangiare con gli altri, la scuola che avrà tirato fuori la preside, carte bollate, certificazioni dell'ASL, il comune intervenuto a dire la sentenza vale solo per chi ha fatto ricorso, non è vero, un giudice ha detto che può essere estesa a tutti, insomma all'italiana, i bimbi e la stanza del panino. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il capo sono io e l'informazione. E allora, eccoci qua alle 7:36 minuti, cari ascoltatori, è tutto un gran dibattere sulla legge elettorale. Perché? Perché l'Italicum, che di fatto non è mai entrato in vigore, nel senso che non si è mai votato con l'Italicum, è entrato in vigore, ma un'elezione non c'è stata, ancor prima di utilizzarlo probabilmente forse verrà cambiato, non si sa, è un balletto quotidiano di dichiarazioni. Oggi Repubblica cita nel titolo di prima pagina: c'è l'accordo, l'Italicum sarà cambiato. Chissà se è davvero così, ma Tommaso Ciriaco su Repubblica racconta a pagina 10: ora nella maggioranza c'è un'intesa per modificare l'Italicum, quando e soprattutto come si vedrà, ma già oggi a Montecitorio il PD e il nuovo centrodestra diranno sì a una mozione che impegna la Camera a cambiare il sistema elettorale, o meglio, ad avviare nelle sedi competenti una discussione al fine di consentire ai diversi gruppi di esplicitare eventuali proposte e valutare una possibile convergenza. Questa è la dicitura ufficiale. Troppo poco e troppo vago, dice la minoranza del PD, orientata a non partecipare al voto. Questa è la linea dettata da Renzi, che tra l'altro da New York fa sapere, questo nel retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 11, ha messo dei paletti. Uno dei paletti sui quali il Premier non intende indietreggiare è quello del ballottaggio. Il ballottaggio considerato intoccabile. Eccolo qui Goffredo De Marchis: le condizioni di Renzi per una possibile modifica dell'Italicum non cambiano, il ballottaggio resta il suo sistema preferito perché la sera delle elezioni si deve sapere chi ha vinto e chi governa, il tempo delle grandi coalizioni o delle alleanze forzate deve finire. Per questo disponibilità a discutere, ma con alcuni paletti irrinunciabili, gli stessi che hanno ispirato l'Italicum. Questa è la posizione di Renzi. La trattativa dunque non può compromettere l'obiettivo cardine, che è quello di sapere alla sera delle elezioni chi ha vinto. In ogni caso, racconta sempre De Marchis, le eventuali modifiche saranno discusse dopo il referendum. In tutto questo c'è stata una proposta del Movimento 5 Stelle, ieri una proposta a dire l'Italicum va totalmente tolto, è incostituzionale, questa è la posizione consueta del Movimento 5 Stelle, e ci vuole una nuova proposta elettorale con il ritorno al proporzionale. Ritorno insomma alla Prima Repubblica, questa è l'accusa che viene fatta al 5 Stelle, e Tra l'altro, risponde Andrea Cecconi, eletto deputato col Movimento 5 Stelle, intervistato da Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, risponde: roba da Prima Repubblica, allora cadevano tanti governi, è vero, ma il paese è diventato grande, uno dei paesi più grandi del mondo proprio nella Prima Repubblica, e allora io non la rimpiango, risponde Cecconi. Cadevano governi come Birilli, va bene, ma questo non ci ha impedito di diventare grandissimi. Non è che il paese ne abbia poi risentito granché se cascava un governo ogni sei mesi. Ma la stabilità di governo non è un valore? Diciamo la verità, non sta né in cielo né in terra dire che con l'Italicum sarà garantita stabilità dei governi. Questa legislatura ha il più alto tasso di volta gabbana della storia. Se 30 o 40 cambiano partito e formano un gruppo, dov'è la stabilità? E poi il declino vero è cominciato con la Seconda Repubblica, con il Porcellum, quando è nato il mito dell'uomo solo al comando, prima Berlusconi, poi Renzi. Questo risponde il deputato Cecconi, intervistato dal Corriere della Sera. A proposito di 5 Stelle, attenzione, oggi è una giornata importante perché ci dovrebbe essere il no di Virginia Raggi e del Comune di Roma, quindi in quanto sindaco, alle Olimpiadi. Dopo l'incontro che viene dato oggi alle 14.30 tra il presidente del CONI Malagò, quello del Comitato Paralimpico Luca Pancalli e il sindaco di Roma Raggi, incontro nel quale ovviamente portatori del sì per le Olimpiadi cercheranno di giocarsi le ultime carte per salvare questa candidatura di Roma ai giochi, poi ci sarà, pare, l'annuncio di Virginia Raggi in una conferenza, e tutti raccontano che è orientata per il no, verso il no alle Olimpiadi. Raggi oggi vede Malagò per spiegare la sua scelta. L'articolo più interessante sulla questione Olimpiadi è questo retroscena di Giovanna Vitale su Repubblica, pagina 13, e riguarda al parere di un avvocato, l'avvocato Gianluigi Pellegrino. L'avvocato Gianluigi Pellegrino, su incarico del CONI, ha elaborato questo parere. Attenzione, perché la revoca della candidatura rischia di costare a Roma, e quindi anche ai romani, 20 milioni di euro. Ricorda infatti Pellegrino, l'avvocato, in questo parere: nel giugno 2015 la città fu candidata dall'allora sindaco Marino con una mozione approvata in assemblea capitolina che lo obbligava a farlo. Su questa base Roma ha chiesto allo Stato di sostenere la sua corsa, anche economicamente. Lo Stato ha accettato. E dunque, se Roma ora si tira indietro dicendo «ci ho ripensato, stavo scherzando», lo Stato dovrà necessariamente esigere il rimborso di quanto speso finora. E i consiglieri comunali e le casse comunali rischiano una causa e una richiesta di risarcimento di 20 milioni di euro. Questo ovviamente è un parere, come dire, di parte di un avvocato per il CONI, ma anche questo ci manca solo. Viene messo sul tavolo. A proposito, manca ancora l'assessore al bilancio nella giunta di Roma. Ieri la vicenda è stata liquidata in pochi secondi dal sindaco Virginia Raggi in consiglio comunale, l'abbiamo fatto sentire alle 6.30 dicendo sto esaminando curriculum e vi faremo sapere presto. C'è però un giallo, il giallo dell'assessore a sua insaputa. Secondo alcuni rumors, non confermati ufficialmente, ma è un giallo per l'appunto, l'assessore De Dominicis, che è stato assessore al bilancio per quanto? 48 ore più o meno, di fatto non è stato revocato con una delibera e quindi formalmente non è mai stato sfiduciato. È assessore ancora in carica a sua insaputa? Lui stesso, effettivamente interpellato dal Messaggero, dice: io assessore in carica non ne so niente, non so che dire. Però il giallo è questo, e cioè, come racconta il Messaggero, Virginia spiega la crisi in 73 secondi e spunta l'assessore a sua insaputa, e anche libero, ennesima grana per la Raggi, un assessore a sua insaputa non sarebbe stato revocato con una delibera e quindi sarebbe ancora in carica. Non lo so, anche Mauro Meazza per esempio non ha avuto una delibera per la revoca ad assessore al bilancio di Roma, quindi di fatto potrebbe, se tanto mi da tanto, essere lui anche l'assessore ombra, o no Mauro? No. Buongiorno. No, però tu non sei mai stato neanche nominato. Ma non penso, non mi risulta, a meno che non sia stato nominato a mia insaputa e quindi poi neanche così destituito a mia insaputa. Guarda, intanto io cerco di tenermi informato, tra l'altro anche te lo consiglio, oggi mercoledì tornano i Focus, sai, gli allegati al Sole 24 Ore, in 16 pagine oggi parliamo dei pagamenti fiscali a rate, che essendo assessore al bilancio leggerò con particolare attenzione. A mercoledì c'è anche il campionato, anche martedì c'è il campionato. Il campionato di martedì effettivamente è strano, infatti ho visto che succedono cose inconsuete, mi hanno detto. Auguri per stasera. Auguri. Grazie. Io purtroppo ieri non mi sono ricordato, vorrai perdonarmi per questo. Senti, volevo dirti che l'APE si sta facendo in tre. Caro mio, devi leggere su Sole 24 Ore quanto anticipiamo, perché come sai la trattativa tra governo e sindacati è in corso, si vedranno il 27 settembre, c'è stato un rinvio, ma ci sono tre APE. Allora, c'è l'APE social, che serve per i lavoratori in condizioni più disagiate, disoccupati ad esempio di lungo periodo, c'è l'APE volontaria, quella che paghi tutta per conto tuo praticamente, c'è l'APE aziendale in caso di ristrutturazioni, quindi con un sostegno da parte del datore di lavoro. Ma tutti i particolari naturalmente oggi sul Sole 24 Ore, insieme alle attese per i tassi delle banche centrali. A questo proposito, articolo da meditazione della giornata odierna, ma che possono fare le banche centrali in questa situazione? Beh, te lo spiega a pagina 2 Isabella Bufacchi, con tanto di una grafica che ti mostra quali possono essere gli strumenti a disposizione. Oggi ci sono le decisioni della Bank of Japan e della Federal Reserve, e quindi vedremo un po' che cosa succede. Ti voglio segnalare una cosa importante. Nelle pagine di norme e tributi che tu leggerai come sempre religiosamente, ti sento distratto, pensando ancora al campionato, il campionato di martedì, così un po' distratto, lo capisco. Allora, nelle pagine di norme e tributi, dicevo, c'è l'approvazione, il primo sì, adesso si passa al Senato, per la legge sul cyberbullismo e il bullismo in generale a scuola. Sembra un argomento che spesso occupa le cronache, ma questa volta invece anche l'attenzione al legislatore, tutti i particolari su norme e tributi. Naturalmente qui Radio Fisco proseguono su norme e tributi gli articoli di approfondimento prima della scadenza per l'invio delle dichiarazioni. Oggi si parla di super ammortamenti. Sei preparato? Benissimo, tutto. Io mi sto preparando perché potrei diventare assessore al bilancio, capisci? Non posso fare delle figuracce, quindi ci sono tutti questi articoli. Oh, e poi ti segnalo, ultimo, ma vabbè, molto altro vorrei dirti, ma il tempo è tiranno, è gli Stati Uniti che preparano delle regole particolari sulle auto a guida autonoma, cioè quelle senza il guidatore, quelle che guidano da sole, come si dice. Ecco, le stanno preparando, ne riferiamo nelle pagine di Finanza e Mercati che tu leggerai avidamente. Bravissimo. E allora a questo punto, già che parliamo di auto, che ti devo dire? Traffico! Alessandro Milan, il Melania Trump dell'informazione. Il Melania Trump, vabbè. Siamo a questa, la First Lady. Forse. Allora, a proposito di Stati Uniti, ovviamente gli Stati Uniti si interrogano molto inquietati per la vicenda che ha portato all'arresto di Ahmad Khan Rahami, cittadino americano di origini afghane, accusato di aver messo gli ordigni, uno esploso a New York, altri no, e quindi accusato di terrorismo. Al momento, per la verità, è accusato solo di tentato omicidio nei confronti dei 5 agenti presenti alla cattura, perché lui non collabora. Però collabora la moglie pakistana, che è riapparsa negli Emirati Arabi, fa sapere Repubblica, e soprattutto c'è questo giallo legato a una denuncia di 2 anni fa che il padre di questo 24enne aveva fatto all'FBI. Cioè il padre aveva detto: mio figlio è un potenziale terrorista. Poi forse aveva ritrattato, e questo dunque ha fermato l'indagine. Però ovviamente, una volta che è successo questa vicenda, tutti a chiedersi se sia stato davvero fatto di tutto per fermare preventivamente quello che è considerato il maggiore responsabile di queste bombe. Mio figlio è un terrorista, lo disse all'FBI, questo è il titolo di pagina 4 di Repubblica, però non si è intervenuti prima. Voglio tornare in Italia invece. C'è un'intervista, Repubblica da qualche giorno porta avanti questa giusta battaglia di civiltà contro le barriere architettoniche per le persone disabili. E oggi c'è un'intervista a Vittorio Podestà, campione paralimpico di handbike. Lo intervista Cosimo Cito a pagina 21 e dice: io che ho vinto 2 ori alle Olimpiadi di Rio, appena rimetto piede in Italia torno un cittadino di serie B. Ieri, per esempio, mi è capitata un'altra. Inizia così l'intervista a Vittorio Podestà, 43 anni, convive con la disabilità dal 2002 dopo un tragico incidente in auto. Ebbene, è successo questo. Arrivo in un autogrill, non trovo posto, una signora aveva parcheggiato in uno dei pochissimi spazi riservati ai disabili. Scusi, era tutto pieno, mi ha detto. Ecco, una piccola cosa, ma enorme. Ma quando torno nella mia Italia è tutto complicato. Abbiamo barriere ovunque. Con la scusa del patrimonio artistico si è fatto pochissimo per adattare la città alle esigenze di noi più deboli. E non parlo di cose complicate, parlo di scivoli dove devono essere, di percorsi coerenti, non interrotti all'improvviso da ostacoli. La politica fa poco, perché noi, come popolo intendo, facciamo poco, non è nella nostra mentalità aiutarci reciprocamente, siamo un popolo egocentrico di tante isole che non pensano al bene comune ma al proprio. Una società che funziona è la società che risolve innanzitutto i problemi dei più deboli. Interessiamo poco, forse, non abbiamo sufficiente appeal elettorale, chi lo sa. La politica è sorda, ma i politici li scegliamo noi. Dice Vittorio Podestà, 2 ore alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, e la denuncia, a dire, in Italia troppe barriere architettoniche per noi disabili. E questa è una campagna che sta portando avanti Repubblica da alcuni giorni, e fa bene. Due notizie di cronaca. Intanto le vicissitudini di Diletta Leotta, volto di Sky, al quale è stato hackerato il telefonino. Ieri i social sono impazziti perché sono state pubblicate alcune foto intime, diciamo, di Diletta Leotta, che aveva nel suo telefonino, quindi estremamente personali, strettamente personali. Le mie foto intime in pasto al web, ovviamente tutto ha fatto pensare a vicende ben più tragiche, come quella che ha portato al suicidio di Tiziana Cantone, la giornalista dice: attenzione, perché così si spezzano vite, è il tema solito del rispetto della privacy. In questo caso c'è un vero e proprio reato, visto che qualcuno ha hackerato il suo cellulare e ha rubato immagini private. E poi dai, non fate finta che non state parlando da 48 ore, no, perché avreste anticipato gli eventi, da 24 ore del divorzio del secolo, del millennio, dei Brangelina, di Angelina Jolie che chiede il divorzio da Brad Pitt, e tutte le donne a dirsi: ma come fai, uno così, com'è che ha detto Elisabetta Fusconi, te lo tieni anche cartonato in casa, uno così, ma c'ha 52 anni, non sappiamo, magari gli puzza l'alito, non lo sappiamo, è bello, com'è bella ovviamente Angelina Jolie. Tutti a parlare di questo divorzio, tutti a dire: eppure erano così perfetti, ma chi li ha mai conosciuti? Li avete frequentati? Ci andate a bere un drink insieme? Ci cenate insieme? Fate il weekend a casa loro? Che ne sapete di Brad Pitt? Un padre perfetto con i loro 300 figli, 6 figli in realtà. Cosa ne sapete di un padre perfetto? Dalle foto? Non lo sappiamo. Comunque, divorziano Angelina Jolie e Brad Pitt, Brangelina non ci sono più. Va bene, eccoci qua, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Potevano essere gli articoli di Brangelina, ma non lo sono. Una pagina intera di chi vuole viaggiare nel tempio della slow music e vive ancora a 33 giri. Ma chi se ne frega!